senza criniera, anzi no, tu una sirena, allora io acqua nera che sbianca di fronte alla tua bellezza ultraterrena. I tuoi occhi da pantera mi fanno quasi paura, perché tu sei proprio vera, di te sei super sicura. Difficile di quest'era trovare una così pura, una perla rara che da rompere è troppo dura. Perché a te non ti incantano quattro chiacchiere, sei forte di carattere, poi duri i tuoi valori da battere. Lo devo ammettere, per me sei nettare e vitale. Volevo solo assaggiare, continuo ad avversare, dai fammi ubriacare di queste sensazioni, per dimenticare insieme i nostri giorni. Perché ti ho lasciato andare, le mie lacrime alluvioni spazzano via la nostalgia, ma formano un lago di illusioni, dove ci specchiamo quando ci sentiamo soli. E sono vuoti enormi quando come mo realizzo che non torni, perché tu sei una donna matura e seria. Io per te non avrei cultura in materia, ma va, non so più che pensare, dimmi se potrò dimenticare in testa il tuo shadow. Rischio di soffocare, penso a te a go-go, quando eravamo al mare proprio in quel posto. Ancora lì ad aspettare, non ci tornerò, ma neanche a pensare, se mai lo farò. Credo di restare, mi contraddico, lo so, credo sia normale, ed è così, baby, che doveva andare, ed è così, sai che non posso cambiare, ed è così, perché non lo so accettare. Gli amici miei mi dicono, è troppo perfettina, dovresti trovarne una un po' più sbarazzina. Ma il detto dei poli che si attraggono si cercano, l'impatto è troppo forte, si distruggono, poi fuggono. A parte poi proverbi, noi siamo troppo acerbi, tipo montagne verdi, come ricordo dovrei tenerti. Guarda poi ti incontro quando non dovrei vederti, e vedo il tuo corpo e vorrei possederti. Siccome sono un diavolo, ricordi su quel tavolo falene che danzavano e ci portavano in un sogno. Peccato che anche loro muoiono in un giorno. Ora la notte non dormo perché penso a te. Non so più che pensare, dimmi se potrò dimenticare in testa il tuo shadow. Rischio di soffocare, penso a te a go-go, quando eravamo al mare proprio in quel posto. E ancora lì ad aspettare, non ci tornerò, ma neanche a pensare, se mai lo farò. Credo di restare, mi contraddico, lo so, credo sia normale, ed è così, baby, che doveva andare, ed è così, baby, non lo so accettare, ed è così, baby, non lo so accettare, non lo so accettare. Non so parlare d'amore come Adriano, però si vede da lontano che noi due ci amiamo. Ho bisogno di una tua carezza, sai perché? Io cerco la bellezza e la ritrovo solo in te. Mi manchi, i tuoi modi, la tua bocca, le mie mani sui tuoi fianchi, le nostre notti piccanti, i nostri cuori distanti. E ora so che tocca a me farmi avanti, ma in fondo è difficile vivere una storia da sogno. È impossibile, ma con te è fattibile, trovi le emozioni, vivile.